la mischia in altri luoghi di chissà quali misteri, nella fretta per capire che niente può sprofondare nell'ombra. Verso del fumo che risalta, ti mi illustri di gioia misurata per terra e ancora oltre, nel cercare chissà quale sostanza liberata dalla pace dei nostri avi. Per una volta te stesso. Critica per una volta te stesso. Te stesso. Te stesso.